Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, pronti a partire anche oggi, venerdì un po' uggioso, come sono stati tutti i giorni della settimana. Ormai mi concentro nella riflessione di apertura sempre sulle condizioni meteo, perché mi agitano un po', Nicoletta. Stai già guardando WhatsApp? Ci sono, sì, già dei messaggi? Si è bloccato. Ah, ecco, adesso lo sblocchiamo. Ma ti volevo dire che è stata anche la giornata della meteorologia, quest'anno, esatto, dedicata alle nubi. Noi stiamo scherzando un po', perché ogni giorno ha il suo santo, ma anche la sua giornata. Esattamente, sì, abbiamo fatto, le abbiamo celebrate praticamente tutte. Quelle di salute, esatto. Una. Però devo dire che quelle di salute battono quelle di soldi, di denari. Quindi devo fare in modo di sensibilizzare l'opinione pubblica ed organizzare. Nessuno ancora ci ha detto qualcosa di divertente sulla giornata di Cuore e Denari, e quale vorreste che fosse? E li rinvitiamo oggi, i nostri ascoltatori, magari a lanciare qualche idea. A proposito, peraltro, cambia l'ora questo weekend, giusto? È vero, tu sei già pronta con qualche suggerimento? All'odole. Ecco. Invece, quando il tempo è così grigio, c'è scritto WhatsApp non risponde, vuoi chiuderla? A me inquietano sempre un po' questi messaggi. Adesso no? Gira. Attendere o ok? Gira a me, Carmelo, che ci penso io. Faccio ok. Ecco. Attendere. Allora, attendere. Dove passiamo questo weekend? Io con il grigio mi chiudo volentieri in qualche centro commerciale, non è per comprare chissà che cosa, ma per fare una buona spesa, visto che domani sera ho gente a cena. Tu invece? Allora, io andrò un po' in giro con il mio cane, e anche con la pioggia, e poi ma a me piace girare un po' per mercatini, andrò magari bene in qualche mercatino. Ricordati coperto di andarmi a vedere quanto costa la pianta di limone, quello, che voglio mettere nel balcone, me l'hai promesso, sì, vai a vado vedere. Vado in un vivaio che mi è stato segnalato da mia figlia, proprio a Milano, un angolone verde. Vero? E quindi cercherò la pianta di limone. Esatto, perché dal fioraio l'ho trovata un po' costosa. Però, e poi allora date indicazioni qualcosa. Dove si mette la pianta di limone? In un balconcino esposto a sud o a nord? Mia. Ecco, perché poi te la devo tenere io. Benissimo, senti, 80024. Parli anche lei, dottor Speciani, sì, che voi avete con la possibilità noi di chiamare qualsiasi esperto in qualsiasi tema in qualsiasi e chiedere esattamente dove mettere la pianta, se far nascere il rosmarino, la salvia. Siamo due donne fortunate, usare, cosa possiamo fare? Sì. Niente, ci è toccata questa sorte. Partiamo con la rassegna stampa, va. Che in realtà è molto breve, racconto solo il flash di borsa, perché sennò sai che gli ascoltatori si agitano subito se non la sentono alle 11:30, alle 10:35. Dico solo che oggi la giornata è un po' debolina, meno 0,3% Parigi, meno 0,02% Francoforte, Londra meno 0,04%, Milano meno 0,19%. Ieri la giornata si è chiusa positivamente, c'era grande attesa per l'approvazione della riforma sanitaria americana, che però è stata rinviata ad oggi perché il signor Trump probabilmente non ha tutto il consenso che crede. Questo la dice lunga anche su quello che potranno essere le sue prossime battaglie al Congresso americano. Detto questo, a Piazza Affari continua a correre Ferrari, e cosa deve fare? Corre anche in borsa, più 1,67%, insieme ai suoi freni, quelli di Brembo, più 0,59%. In calo invece abbiamo BPR Banca, Campari, Prismian, perdono tra lo 0,7% e un punto percentuale. L'euro ancora una volta a flirtare con 1,08% sul dollaro. Quanto flirtano? Flirtano, guarda che è una bellezza. Allora, andiamo subito al primo tema di oggi. Nicoletta, qua mi devi aiutare. Intanto, cinese, giapponese o risotteria? Come la vedi? Ma la vedo dura. La vedo casa Carbone, brava, che è meglio. Brava. Esatto. Allora, dove si va stasera o domani sera? Domani a Milano intanto non si va da nessuna parte, visto che con l'arrivo del Papa la città è blindata. Quindi tutti a casa, pasti rigorosamente cucinati in famiglia. Speriamo almeno di avere il tempo di fare la spesa prima dell'arrivo di tutta la carovana del Pontefice, se no siamo fritti. Attenzione che però qua la parola fritto va sempre usata con moderazione, no? Dipende, con che olio friggi. Con l'olio buono. No, certo. Temperatura adeguata, viene, è giusto, ecco. È una giusta concessione. E poi un bel piatto di verdure crude, e a, quindi a fianco si compie, bravi. Belle colorate, bravi. Colorate, vive, allegre. Allegre. Bravo. Allora, italiani sempre mossi da grande prudenza nelle scelte di spesa e di consumo, ma in realtà sembra essere tornata una propensione alla spesa e ai consumi, una certa disponibilità agli acquisti. E verso cosa si indirizzano prevalentemente gli italiani, Nicoletta? Lo ha detto ieri il Censis. Beh, allora, seguono, possiamo dire, le indicazioni di Cuore Denari? Infatti, verso il cibo, soprattutto quello di qualità. E allora, il Censis ieri a Milano ha presentato, con la collaborazione di Nestlé, la ricerca Il futuro dell'alimentazione tra stili di vita contemporanei e nuovi modelli di fruizione. Ci racconta tutto il direttore generale del Censis, Massimiliano Valeri, che salutiamo. Buongiorno, benvenute, grazie. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Lo sa che il dottor Speciani ci ha detto che segue molto attentamente le sue pubblicazioni, i suoi interventi pubblici, per cui era molto contento che ci venisse a raccontare personalmente stamattina la vostra nuova ricerca, dottor Valeri. Questo mi fa molto piacere. Eccoci qua. Allora, la spesa alimentare, drasticamente segnata dalla crisi, negli ultimi anni ha ripreso a crescere recentemente. In che misura, dottor Valeri? Quali sono i tratti del consumatore di cui proprio ieri avete rilasciato questa fotografia a Milano? Sì, dopo questi lunghi e perfidi anni della crisi abbiamo registrato nell'ultimo biennio una ripresa dei consumi alimentari e questo naturalmente è un segnale positivo, ma al di là dei dati quantitativi quello che è interessante è scoprire che oggi non siamo più quelli che eravamo prima della crisi, siamo molto cambiati anche negli stili e nei consumi alimentari. Prima, nella fase precedente, sostanzialmente l'arbitraggio era tra qualità e prezzo. In base alla propria disponibilità economica ci si orientava di più su prodotti di qualità oppure si era costretti insomma a comprare prodotti più economici. Oggi invece le pratiche sono molto più complesse, tengono insieme molti altri fattori, le scelte di acquisto sono guidate da tanti altri fattori, di cui il primo è sicuramente la trasparenza. Gli italiani vogliono sapere tutto, vogliono informarsi su tutto di quello che mettono nel carrello della spesa e portano in tavola. Il secondo aspetto è l'impatto sulla salute, si comprano cioè alimenti che si ritengono genuini e si sta molto attenti agli effetti sulla salute. Il terzo aspetto fondamentale, visti gli stili di vita contemporanei, è la praticità, la funzionalità dei cibi che vengono acquistati, quindi anche cibi pronti o precotti che si tengono in casa pronti all'uso durante le giornate o durante la settimana. E infine l'ultimo aspetto è un consumatore evoluto che è molto attento anche a dei valori, chiamiamo diciamo così, etici che vengono incorporati dai prodotti alimentari e si sta molto attenti ad esempio alle compatibilità ambientali dei processi industriali di produzione. Ecco, quindi vedete che c'è una maggiore complessità rispetto al passato, conta su tutto questo la marca, perché la marca è il garante che tiene insieme tutti questi aspetti dal punto di vista del consumatore, per cui il consumatore è anche disposto a pagare un po' di più per quei prodotti di marca rispetto ai quali si sente garantito. Direi quindi che da una parte l'attenzione per l'informazione e dall'altra parte il nuovo ruolo del web che sta crescendo. Non ci dica niente su questo perché ci arriviamo in un secondo momento, dottor Valeri, ma mi piaceva appunto questo concetto che è emerso da questa presentazione di ieri, dal quale si evince che gli italiani sarebbero caratterizzati, contraddistinti da questo pragmatismo illuminato nelle scelte alimentari. Mi i nutrizionisti hanno fatto molto. Hanno lavorato molto anche l'informazione, un consumatore più attento, più consapevole, vuole investire nella sua salute. Le nostre nonne dicevano, dottor Speciani, si ricordano, meglio spendere al mercato che in farmacia. Forse questo concetto è passato perché quello che mettiamo nel carrello, mettiamo nel piatto, ha una relazione strettissima, lo ripetiamo da tanto tempo, con la nostra salute. Ah, io direi di sì e mi piacerebbe entrare un attimo in contraddittorio con il dottor Valeri su due aspetti. Perché il concetto di marca è bellissimo, secondo me questo concetto di fidelizzazione passa dalla fatica che fa l'italiano quando decide, perché analizza 18 etichette, 42 cose, cioè, poi alla fine dice ok, ho trovato e adesso non rifaccio un'analisi globale, generale. E il secondo, che non è necessariamente quello solo dello spunto salutistico, ma che, rileggendo molto bene i dati di ieri della vostra conferenza di ieri, che è anche un aspetto di come dire, non posso comperarmi la Maserati e quindi magari vado a scegliere un cibo che costa un po' di più, che mi gratifica, che è piacevole. Cioè, in questo elemento di costo, qualcosa che uno può introiettare entro se stesso come beneficio, come piacere, in realtà prende il sopravvento. Io lo vedo anche come un bilanciamento un minimo edonistico. Bello, buono nel senso sano, ma anche gradevole, piacevole, un qualcosa che restituisce anche un po' qualità. Certo, e il fatto che ci sia qualità per noi, io devo dire, quando ieri mi è passata sotto gli occhi i risultati di questa analisi, pensavo al lavoro che Cuore Denari ha fatto, sta facendo e continua a fare. Siamo quasi commosse. Grazie. Siamo qui. Allora, intanto invitiamo i nostri ascoltatori, Deborah, perché sì, stanno già chiamandoci per il limone, arriveremo anche sono al limone. Sono in una botte di ferro quando mi rivolgo ai nostri ascoltatori per ogni consiglio, altro che gli esperti che dicono. Non so se anche il dottor Valeri è preparato sui limoni, ma lo chiederemo adesso naturalmente anche a lui. Certo. Intanto raccontateci come è cambiato il vostro stile alimentare, se vi sentite descritti da questa indagine e soprattutto quali cambiamenti avete naturalmente cercato di coltivare, magari quelli che sono stati anche un po' più difficili ma che vi hanno reso molto. Infatti, allora dottor Valeri, prima ce lo anticipava, l'ho bloccata la sua considerazione sul nascere, tra le tendenze più interessanti sulle quali avete soffermato l'attenzione nella vostra indagine, sulle quali vale la pena soffermare appunto anche la nostra attenzione, c'è la caccia alle informazioni prima dell'acquisto e canali attraverso i quali informarsi anche quando si tratta di scelte di consumo alimentare. Ovviamente, come per la salute e i temi finanziari, ne abbiamo parlato proprio ieri, il web batte tutti ed in più ci mettiamo anche le scelte che vengono fatte dai millennials, oggetto appunto, come dire, fascia sociale oggi di grande interesse per tutti i tipi di analisi. E cosa avete scoperto a proposito appunto del cibo? Beh, esattamente così, poiché quello che si evidenzia è un forte soggettivismo nelle scelte, anche nei consumi alimentari, è evidente che internet è il mezzo di elezione per esprimere questo soggettivismo, per cui è il mezzo, non soltanto il principale mezzo attraverso il quale ci si informa, perché lo si può fare attivamente cercando le cose che più interessano, e questo riguarda in particolar modo i giovani millennials, ma oggi diventa sempre più anche un canale di distribuzione. A complemento di questa complessità che ho provato a descrivere, cioè da considerare che si stanno diffondendo sempre di più gli acquisti online, ma anche delle modalità così di fruizione più rapida, per cui comincia a diffondersi il cosiddetto click and collect. Io vedo su un sito internet i prodotti che mi interessano, li ordino e poi li vado a ritirare fisicamente in un luogo di vendita, oppure si possono ordinare piatti pronti, cibi preparati. Quindi anche in questo caso conta, dicevo, la marca, in questo caso quello che conta è la piattaforma di distribuzione. Quindi si presentano per i soggetti di offerta veramente nuove importanti sfide che passano in gran parte anche attraverso il web. Vinceranno quei soggetti di offerta che sapranno tenere conto di questa evoluzione, di questa trasformazione della domanda e che quindi sapranno tenere tutto insieme questi aspetti: la qualità, la forte domanda di italianità, ricordiamolo, perché per gli italiani consumare prodotti che vengono realizzati in stabilimenti in Italia oppure che utilizzano ingredienti italiani continua a rappresentare un fattore molto importante. Quindi la qualità, l'attenzione alla salute, l'italianità, i nuovi canali di distribuzione, di delivery. I soggetti di offerta devono adeguarsi a queste trasformazioni. È una sfida molto importante che va accolta per tempo. Abbiamo il traffico, adesso posso dire che è un tema molto interessante anche per i risvolti di natura occupazionale e professionale che ha. Abbiamo parlato anche spesso con Nicoletta e abbiamo rilevato appunto con grande nettezza anche questa tendenza. Ci fermiamo, c'è il traffico, ci torniamo tra pochissimo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Cuore e denari. Quando si dice una trasmissione work in progress inventata sì, sul campo, perché è certo inevitabile. Allora, sul vaso. Cos'è allora limone, cantiamo. Facciamo. Ho creato dei mostri stamattina, allora, parliamone. Abbiamo chiesto l'aiuto dei nostri ascoltatori. Deborah prenderà una pianta di limone per il che suo balconcino. Che è un evento storico che io prenda una pianta e quindi... Ecco, allora dove la mettiamo? Dobbiamo capire innanzitutto dove è esposto il balconcino di Deborah e poi vediamo se dove è esposto, quando hai il sole. Comunque, il intanto... sole ce l'ho il pomeriggio, adesso arriva l'estate. Allora il tema è stato questo che ho sottoposto al fioraio. Dico, io adoro la pianta di limone, anche non essendo una grande consumatrice, perché devo dirlo, ma la pianta mi piace moltissimo e da anni sono stuzzicata dall'idea di metterla in balcone. Voglio preparare del limoncello. Arriva per l'amico. Esattamente. E anche il dottor Speciani. Molto bene. Che offriremo anche al dottor Valeri. Esattamente. Allora, il tema è che adesso arriva l'estate e io ho questo piombo di sole tutto il pomeriggio, dalle 4 in avanti fino alle 9 di sera. Per cui posso mettere nel mio microscopico balconcino la pianta di limone? La fioraia mi ha detto ma sì, assolutamente. Faccio bene, faccio male, che fa? Oppure me li trovo lì essiccati, il limone essiccato. Allora, faccio, Rocco da Bari. Sì. Abbiamo. Rocco, cosa facciamo? Buongiorno. Buongiorno. Nicoletta e Deborah. Sì. È un piacere parlare con voi. Lo credo. Vi seguo sempre. Grazie. Allora, la pianta del limone deve essere esposta a sud. Quindi ha bisogno di sole, Rocco. Sì. Ecco. Sì. Benissimo, e quindi faccio la scelta giusta. Poi ci lasci i suoi riferimenti, perché poi Deborah avrà i dubbi quanto la bagno, cosa sua, faccio quando quando arrivano, li raccolgo, li mando, produco. Arrivano magari quella cosina bianca che si vede ogni tanto sui fusti, allora che cosa fare? Quindi Rocco si tenga a disposizione, la pianta la prendiamo. Bene lì, grazie. Sarà la pianta di Cuore Denari. Ma Cipriano mi chiede di fare anche un'aggiunta. Cipriano da Frosinone, buongiorno. Sì, buongiorno Stelle. Oh. Beh, oggi è giornata buona. Magnifica. Ma, ma siamo irresistibili, ma non lo so. Mi date compagnia tutti i giorni, io faccio l'agente di commercio. Lo crediamo, e poi sa che noi siamo molto affezionati a voi, andiamo sempre alla vostra manifestazione. Con piacere e con passione. Salutiamo Davide Ricciva, il patron di Forum Agenti. Allora, Cipriano, lei ci suggerisce? Io invece vi voglio suggerire di piantare un bergamotto. Un bergamotto che è anche profumato. È bellissimo, è profumatissimo. Va bene anche con tanto sole addosso, Cipriano? Deve stare tanto sole e mi raccomando, a Milano bisogna poi coprirlo d'inverno. Sì, quello come sì. Fa la Bougainville di Nicoletta. Sì. Anch'io alla mia Bougainville, sì, la faccio. E deve stare a riparo dal vento. Benissimo. Grazie Cipriano, ci lasci anche lei i suoi riferimenti, perché e avremo domani bisogno fammi anche di il preventivo lei. Per il bergamotto. Va bene, primo andiamo. Da Perugia, l'ultimo suggerimento sui miei limoni futuri, molto futuri. Pronto? Primo vada. Buongiorno tutto il giorno, signore. Grazie. Ma qua è una gara, Chi ci piace di più? Che devo dire? Oggi avrei corteggiamento. Ormoni a mille. Allora, dai. Allora, il limone va benissimo tenerlo a sud e ovest. Più che mai a ovest, dove batte il sole il pomeriggio, che il limone ha bisogno è molto caldo. Niente dai, tu ce l'hai a ovest, perfetto. È il limone pianta. È la tua. Va poi, bene. Quando, poi quando comprate il limone da vivaio... La cosa più importante sarebbe di toglierli, di trovare della terra proprio di campo e mischiarla con quel concime che hanno loro, perché quel ottimo. Concime può fare dei bacheni. Va e bene. Poi rovina le radiche. Allora, e un pugno di concime nitrato. Assolutamente. O a primavera a inverno. Primo. Tu mi domani mi devi comprare tutte queste sì, robe. Poi vado sai, nei sì? campi. Il Papa viene a Milano, io vado nel campo a prendere la terra per cose, così mi arrestano e mi porti tu i limoni. Esatto. All'arancia. Dottor Valeri, che ci deve lasciare fra tre minuti, non è capitato in una gabbia di matti. È abbastanza inconsueta una puntata così frizzantina, ma è venerdì, ce la siamo voluta regalare, che dottor siamo Valeri. Proprio esatto. Delle lame, mi sembra doveroso. Non è che, no, niente. Va bene. Senta, ci racconti un po' le ultime cose di questa vostra indagine, perché l'altro tema interessante che è emerso è che nel 2016 almeno 19 milioni di italiani hanno acquistato cibi cucinati pronti, come per esempio pizza, hamburger, cibo etnico con consegne a domicilio, e quindi anche questa è un'altra tendenza da esplorare, ma senza scendere a patti appunto con la qualità. Esattamente, io credo che l'importanza di questa ricerca che ci ha commissionato Nestlé Italia è proprio quella, al di là dei valori quantitativi, di vedere come si trasforma l'approccio ai diversi cibi, questa nuova centralità del cibo, come ci sta cambiando e cosa si vedrà di più nel futuro. L'elemento importante, ritorno su questo, è l'italianità, che si vede non soltanto nella forza dell'export della nostra filiera enogastronomica. Noi abbiamo avuto negli ultimi 10 anni una crescita delle esportazioni che è stata dei prodotti alimentari italiani, che è stata più che doppia rispetto all'export complessivo, ma questa apertura alla globalità significa arrivare non soltanto su nuovi paesi, nuovi mercati di sbocco, ma anche incorporare nelle nostre abitudini un po' di globalità, per cui cominciano a diffondersi cibi etnici, li vediamo nella grande distribuzione, compaiono sempre di più nelle case degli italiani, e quindi italianità da una parte, apertura alla globalità dall'altra, grande attenzione per la qualità declinata attraverso quei fattori che vi dicevo all'inizio, ecco, è un quadro molto più complesso, l'offerta è molto più articolata che nel passato, quello che vince è l'arbitraggio individuale, quel pragmatismo illuminato degli italiani che non si affidano ciecamente, come dire, a delle fedi radicate nel passato, ma fanno questo mix combinatorio volto a tenere tutto insieme, utilizzando anche i nuovi canali di distribuzione, come le consegne a domicilio, piuttosto che il vending, cioè le macchinette di distribuzione. È un quadro molto più sofisticato e articolato che nel passato. Questa è la sfida che hanno di fronte oggi i nuovi soggetti di offerta. Benissimo. Che si presenteranno sul mercato. Tante cose interessanti. Dove ci porta a cena a Roma quando io e Nicoletta veniamo a trovarla al Censis? Bisogna... La gastronomia romana in questa fase è anche quella in fase di transizione. Vabbè. Andiamo sul tradizionale, vaso, una bella cacio e pepe che va sempre bene. Dottor Valeri, grazie molte per essere stato con noi. Le auguriamo un buon weekend. A presto. Grazie a voi. Buona giornata. Che si fa allora? Andiamo anche per in lui pausa una e poi... botticella di limoncello della nostra della mia speciale. Nuova produzione. Sì, io tenevo a toccare questo aspetto che riprende anche l'azione di Cuore Denari, perché è vero l'arbitraggio che è il libero arbitrio fondamentalmente di ogni persona, però la educazione e l'informazione aiutano, diciamo, poi il modo in cui ogni persona sceglie. Noi stiamo facendo un supporto di tipo informativo per dei gruppi e ci rendiamo conto che informazioni come non usare un olio cotto ma poterlo aggiungere crudo, in realtà poi fa la differenza anche negli acquisti. Allora, anche altre differenze di cui parleremo nel corso della nostra trasmissione. Intanto diteci un po' come sono cambiate le vostre scelte alimentari. Avete così sposato una dieta del senza qualche alimento? Parliamone. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cuore e denari. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà. E l'ora si avvicina, qua. O il secondo aperitivo facciamo o un pre-pranzo. No, il primo non l'abbiamo ancora fatto perché il dottor Speciani non, esatto, non ha voluto neanche il caffè. Tre, esatto. Allora, siamo partite dalla pianta di limone. Domani vado a cercare la pianta di limone per Deborah. Ci avete dato anche dei consigli per diventerò la regina del dove limone. Collocarla. E adesso passiamo al tema di questa seconda parte di Cuore Denari, perché siamo partiti dalla ricerca del Censis, il futuro dell'alimentazione tra stili di vita contemporanei e nuovi modelli di fruizione. Noi vogliamo entrare nelle vostre case e farci raccontare che cosa e come è cambiata e ha cambiato la vostra alimentazione, perché l'avete fatto e che risultati avete tolto o avete aggiunto. Allora, spazio alle telefonate dei nostri ascoltatori. Ricordiamo che siamo in diretta Facebook. Ah già, è vero, esattamente. Ti piace? Assolutamente, ci piace, quindi potete. Allora, quindi noi facciamo lavorare il dottor Speciani e facciamo lavorare i nostri ascoltatori. È venerdì, fantastico, no? Cosa dici? Ottimo. Iniziamo con... Allora, iniziamo appunto per le varie ricette dell'eliminazione. Sentiamo Angela da Milano, che cosa ha scelto di scartare dalle proprie abitudini alimentari, se ha fatto bene, male, non lo so. Angela, buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. Buongiorno, sono Angela. Vi ringrazio delle trasmissioni che fate sempre, che seguo giornalmente. Grazie. E sono molto utili. Grazie. E comunque io ho scartato dalla mia alimentazione dal 2009 il formaggio. Che assiduamente mangiavo, cioè assiduamente almeno una volta ogni due giorni sicuramente, anche perché era una buona alternativa per portarmi in ufficio. Ah, certo. Però soffrivo da 30 anni di mal di testa, ma mal di testa che ero KO per 3 giorni, quindi erano abbastanza pesanti. Certo. E da quando io ho scartato il formaggio ho trovato un giovamento decisamente, cioè io il mal di testa non l'ho più avuto. 2 anni fa ho cercato un giorno, ho visto una mozzarella che mi ha fatto impazzire solo a guardarla, l'ho comperata, l'ho mangiata, il giorno dopo sono stata malissimo. Allora, dottor Speciani, questa è la testimonianza di Angela. Ha trovato un alimento, un gruppo di alimenti di cui l'Italia, voglio dire. Ma intanto dei prodotti straordinari. Abbiamo discusso della immensa varietà della produzione italiana, e quello che lei ha detto, la chiave di percezione di quello che ci ha detto Angela è che lei assiduamente mangiava, cioè una ripetizione sistematica. Io lavoriamo sull'infiammazione da cibo ormai da tanti anni, e quello che crea problema non è il formaggio, il glutine, il riso o altro, ma la ripetizione sistematica dell'assunzione. E che cosa succede? Succede che quando una persona a quel punto la toglie del tutto, bisogna ricreare uno svezzamento come nel bambino, cioè partire non da una mozzarella intera che ti fa impazzire, ma da una goccina di latte, poi un pezzettino di un granellino di parmigiano, poi due, poi tre, poi cinque, e nel corso di una reintroduzione, io dico alle persone, ne vedo tante, che hanno temi come la colite oppure l'emicrania ricorrente legata a certi particolari cibi, dico non dobbiamo ricostruire che devi mangiarli sempre, però la libertà di andare, che so, a farti un giro, a mangiarti una burrata di andria o la focaccia col formaggio a recco tranquillamente, no? Occasionalmente, senza stare male come è stata male lei. Quindi ci sono gli strumenti per farlo. Allora, dalla mia dieta, ci scrive un ascoltatore su WhatsApp, ho tolto lo zucchero bianco e i cibi troppo raffinati, ho integrato più legumi e cibi integrali. Sul cibo integrale adesso mi appare la cosa, sul cibo integrale vado anche sul bio, un integrale non bio come ad esempio il riso credo possa essere a rischio di portare all'assunzione di un eccesso di pesticidi, ci scrive Luca da Bologna. Allora, la scelta fatta, fanno scelte salutari, buona, più attente, più consapevoli. Per cui una scelta buona, positiva. Io spiego sempre alle persone, proprio perché siamo già sovraccaricati da sensi di colpa talvolta inutili. Una volta che l'organismo, perché l'organismo umano, dal punto, lo dico da immunologo, è in grado di adattarsi, la occasionalità di andare a mangiare dalla zia Pina che ti ha fatto la pasta raffinata, piuttosto che occasionalmente mangiarsi una buona pasta strana fatta in modo non adeguato, la possiamo fare. Perché? Perché siamo in grado di adattarci. È importante, come sta facendo questa persona, invece di trovare una base che quanto più è biologica, naturale, come abbiamo discusso prima anche con Valeri su quella che è l'immagine salutistica, ci consente di, come dire, di aumentare il nostro livello di resistenza e di capacità di adattamento. Allora, vogliamo salutare Gianni da Bologna? Assolutamente. Ciao, Gianni. Sì. Magari anche lui ha un limone a casa. Gianni, buongiorno. Gianni? È andato a comprarsi i tortellini. Dottor Speciani, un altro messaggio, perché dai messaggi che stanno arrivando via WhatsApp noto una sorta di tendenza a eliminare, proprio a cancellare dieta gruppi di alimenti. Allora, ho scelto di eliminare dalla mia alimentazione pane, riso, pasta, patate e tutti i cibi ad elevato indice glicemico. Ritorniamo un po' sull'aspetto dell'indice glicemico, anche a sottolineare che varia da cibo a cibo, ma anche la cottura incide, certo, sull'indice glicemico dei cibi. Facciamo l'esempio della patata. Allora, la patata, che ha un indice glicemico, se è quasi sfarinata, bollita, come spesso avviene nelle cucine nordiche, e diventa molto, molto calda, quindi sfarinata, ha un indice glicemico molto alto, vicino a quello dello zucchero. Dopodiché, se invece uso delle patatine più piccoline, le tengo con la loro buccia, le tengo un po' indietro al dente, anziché avere un indice glicemico 100, ho un indice glicemico che è 65. Se aggiungo sopra dell'olio, che rallenta l'assorbimento, vado a 45, cioè quasi come quello di una verdura. Allora, la logica è di fare bene. Come c'è un'altra, prima è arrivato un messaggio di una ragazza che eliminava completamente i soffritti, tolto i fritti, sì, eccetera. Abbiamo avuto qui occasione, grazie a voi, di incontrare anche chef con cui abbiamo lavorato con delle ricette, facendo i soffritti all'acqua. Ma che bello! Ma abbiamo delle potenzialità di esaltare i sapori che ci sono dentro le nostre verdure, creare delle condizioni di piatti buonissimi a cui aggiungiamo poi dell'olio a crudo alla fine. A quel punto abbiamo dei piatti che sono saporiti, gustosi, e non abbiamo il soffritto come colpa. Dopodiché, se uno per sbaglio una volta va dalla zia Pina e gli prepara un soffritto, lo mangi serenamente. Tra l'altro, noi tra poco avremo uno chef insieme a noi che è un grande amico di Cuore Denari, anche se oggi debutta radiofonicamente con noi, ma vedremo appunto se si trova in linea con tutte queste indicazioni date dal dottor Speciani, che richiamano ad indicazioni date appunto da chef già assolutamente passate. Sì. Però riprendo la persona che prima ha eliminato completamente tutti i cereali. Esatto. C'è una ricerca bellissima che dice che ogni 28 grammi di cereali integrali che mangiamo al posto di 28 grammi di cereali raffinati, c'è un 5% di riduzione del rischio morte complessivo da qualsiasi causa. Ed è un dato importante, vuol dire, non è che uno diventa Nembo Kid e resiste a tutto, però mangiando integrale, quindi anche i cereali integrali, che quindi hanno un indice glicemico molto più basso, si va verso un miglioramento complessivo della propria salute. Dopo, c'è Gianni. Gianni, buongiorno, era andata a comprare limone per Deborah, adesso... Adesso c'è il suo cane. Ha portato fuori il cane. Che è un sacco... piccolino, dalla voce. Il cane, eh? Sì, ma io adoro allora, i cani. Volevo molto, molto brevemente. Io ho cambiato il mio sito. Gianni, niente, è proprio Gianni, oggi sfortunato, non è giornata. Riproviamo più tardi. Saluti il suo cane. Grazie, ma la ripescheremo nel corso della trasmissione. Dottor Speciani, abbiamo parlato di togliere. Proviamo anche ad aggiungere. Oh, ecco, che bello. Mi piace di più. Mi piace di più, anche a me. Anche a me piace. Aggiungiamo di più. Gusto, perché sapore, passa poi sempre varietà. Il messaggio sbagliato, no? Sì. Poi arrivano i messaggi del non voglio il famoso non voglio vivere morire da, no, come da sano sì. E vivere tutta la vita. Vabbè, malato, quello. Ma altro che viviamo alla grandissima. Invece. E poi quei giorni che hai guadagnato piove, come diceva Woody Allen, no? Ecco. Allora, dottor Speciani. Frutta e verdura. Eccola. Ecco. Che questa è una bellissima... Verdura più che frutta. Sì, tendenzialmente direi di sì, non manchino tutte e due, però devo dire che all'aumento di verdura uno davvero ne può mangiare tanta, e bilanciando bene anche con gli altri cibi. Tra l'altro c'è una ricerca recente dell'Imperial College che dice per l'appunto che anziché le 5 porzioni di frutta e verdura è meglio che siano 10. Io devo dire, se ragiono su quello che mangio io forse alla fine della giornata ne ho mangiate 18, quindi nella mia storia. Bisogna che noi ci abituiamo a usare, al posto del pane, cracker, risini, eccetera, che siamo abituati da tempo ad usare questi, a usare anche un po' di cereali, magari preparati in modo diverso, interessante, integrali, e poi molta verdura a fianco. Io uso sempre questo esempio delle crudité, crudo vivo e colorato, avere di fianco carote, sedani, cose da mettere da sgranocchiare. Questo è salute. Questo il ravanello, è salute. Ravanello ricchissimo di vita, trovare, cara, sì. Sì. Io mi viene sempre da ridere quando sono ad un party, ad una festa o qualcosa, perché mentre gli altri prendono quello che c'è sopra, io vado a raschiare l'insalata che di solito si usa l'insalata sotto come, come dire, porta pietanza. Io mangio sempre quella e poi mangio anche qualcosa di più buono. Invitiamo il dottor Speciani. il pesce spazzino fa. Dottor Speciani, ecco, iniziare. Allora, il problema è che non tutte le persone amano le verdure. I bambini non neanche a parlare. E soprattutto arrivare a 40-50 anni e cambiare proprio la composizione del proprio pasto, inserendo le verdure quando non si sono quasi mai mangiate o con porzioni molto ridotte, può essere complicato. Quindi a chi piacciono, fantastico. Carote, finocchi, sedano, riusciamo a trovare appile e gusto anche nei ravanelli. Ma chi non riesce a mangiarle può fare qualcosa, allora, introdurle gradatamente, mescolarle, però insomma il cibo è anche piacere. Io nei bambini utilizzo ad esempio intanto una lavata di capo ai genitori, perché spesso mi portano i bambini dicendo il mio bambino non mi mangia la frutta e la verdura. Allora faccio due domande su chi la mangia in casa e ci sono risposte veramente sconfortanti. No, verdura no, perché si mangia solo due foglie di insalata alla fine della sera. Allora, oggi abbiamo estratti a freddo, centrifugati, piccoli pezzettini di l'importanza ad esempio di usare dei frutti di bosco. Di solito anche i bambini sono attratti da una fragola, due lamponi, sei mirtilli, piccoli elementi che possono fare, come dire, gioco ad introdurre. Ai bambini dico sempre, ci sono alcuni integratori che vanno a compensare. Addirittura, se voi pensate che a livello industriale c'è chi ha composto dei frutta e verdura compressata e la danno in compressa ai bambini, mi fa un po' sorridere nell'insieme. Utile. Allora dico ai bambini, ma Fai il conto di quanto costa questo, fai un patto con i genitori. Se alla fine di un anno organizza un, se inizi a mangiare verdura, papà e mamma ti regalano qualche cosa che è il valore del, del prodotto venduto. Vedi, questo è da denari, eh? Questo è da questa denari. Questo è un bel ricattone proprio. E devo dire che pattuendo, alla fine uno fa i conti. A 14 anni ti compri il motorino. Casa, esatto. Vengono delle cose importanti. E poi migliora la pelle, migliora il quadro e tutto quanto. Quindi c'è anche la possibilità di integrare. Però onestamente io dico... Tutto il segreto della polpetta dove puoi nascondere tutto, in realtà fare quel piccolo pasto per il bambino che esteticamente lo attira e l'interno non lo vede, ma insomma qualche cosa ci sono trucchi allora, comunque è vero che iniziando un pranzo, un pasto con una bella insalata, ma non due foglie di soncino con una rucola svenuta, ma con tanta varietà, perché mescolando i sapori riusciamo anche a mettere meno sale, devo dire che togliamo la più grossa, perché se siamo affamati, e soprattutto ci sono delle ricadute molto importanti, dottor Speciani, che lei ci ha descritto e che vorrei tornare a ricordare ai nostri amici, perché digeriamo meglio, ci riduzione della fame, che così riguarda spesso le persone, importante. Secondo, attivazione enzimatica, cioè nelle sostanze crude ci sono enzimi che non sono stati inattivati dalla cottura, che aiutano non solo la digestione ma tutta una serie di processi funzionanti che portano poi a un benessere alla salute. E il controllo, questo è fortissimo come elemento, la riduzione di qualsiasi infiammazione da cibo, cioè l'assunzione del crudo vivo e colorato è un elemento che consente di ridurre i processi infiammatori che il cibo a volte ripetitivo può indurre. Quindi 1, 2, 3, se non lo si fa. Allora, un ascoltatore ci scrive: dice? Ragionissimo il dottor Speciani. Bravo. Togli che mettiamo un bel bollino blu anche a lui. No, stavo pensando alla frutta secca. Per i morsi della fame, quando ci sono, senza esagerare naturalmente, anche lì però risolvono tanti problemi. Non anche... solo, frutta secca, parliamo di semi oleosi, perché molta gente poi dice sono le albicocche seccate, Sì, le cose, il cocco, no, la parlo, banana, eccetera. Parlo di noci, di mandorle, di nocciole, di questa cosa, di semi di zucca decorticati, di semi di che girasole, buoni. Che buoni, ma fantastici. Quanto Pinoli, costano, dottore, buoni. Mamma mia. però sono buonissimi, però, me li mangerei a manciate. Per avere cuore bisogna avere anche a volte tanti denari, vabbè, però ce la caviamo anche con qualcosa che costa meno tra ma se non vorrei neanche mai sconfessare il rapporto Censis di prima, insomma, spendiamo un pochino di più se le cose sono buone. Quelli sono fondamentali, perché oltre ad avere dentro una sostanza oleosa, sono oli buonissimi, abbiamo detto che una noce al giorno basta a togliere l'Alzheimer di torno, no, adesso della banalizzazione, però ha un senso questa cosa, ma soprattutto essendo ricchi di proteine in realtà fermano la fame per un tempo prolungato, cioè il fatto di mangiarsi 3 mandorle, 4 nocciole piuttosto che spiacciarsi i grigli di 2 noci, in realtà ti porta assolutamente ad avere una stabilità poi dal punto di vista glicemico, quindi non ti ritorna la fame dopo un quarto d'ora. Ecco, ricordiamo che è utile consumarle, ci sono dei momenti della giornata in cui sono particolarmente utili, quando ad esempio abbiamo fame, uno spuntino assolutamente sano, ma dottor Speciani, lei raccomanda sempre di inserire una piccola quota proteica anche a colazione, chi non ama l'uovo, non piccola ma una buona quota di proteine, giusta. Per chi non ama una colazione salata o vuole non gradisce l'uovo o magari la frittatina di albume, perché adesso la vendono anche a proposito dei supermercati di cose pronti, l'albume a parte, i semi oleosi possono essere una valida alternativa. Sono vegetariani, vegani oltretutto, quindi non obbligano nessun tipo di discorso etico e hanno un contenuto veramente elevato di proteine, quindi poi non, per fortuna non è una mia idea quella di bilanciare con le proteine, ma è una delle indicazioni più importanti della Harvard Medical School, su cui sono stati rianalizzati tutti i dati purtroppo scorretti che hanno portato ad esempio gli Stati Uniti ad un livello di obesità assoluta, con diete in cui si è detto togliamo i grassi, mangiamo solo via le proteine e mangiamo solo carboidrati, e sono diventati tutti cicciotti. Allora, questa cosa è stato finalmente interpretato interpretato in maniera differente, le proteine in quantità giusta servono anche al mattino. È uno degli elementi fondamentali, anzi mi piacerebbe dirlo perché so che ci sono anche molti sportivi che ci ascoltano. Mm-hmm. Sì. C'è un bel lavoro del 2014 pubblicato sul Journal of American Nutrition che dice che se io devo mangiare 60-70 grammi di proteine nella giornata per mantenere il muscolo e quindi tenere attivo il metabolismo, li devo dividere 22-23 al mattino, 22-23 a pranzo, 22-23 a cena. A quel punto ho fatto il mio bingo e riesco ad avere una produzione muscolare attiva, il metabolismo. Mi dà le quantità, cioè mi fa visualizzare queste 22-23 faccio grammi. In fretta, sì. Faccio in fretta così almeno la gente capisce, perché una bistecca da unetto o un piatto di pesce da unetto ha 20 grammi dentro di proteine, ma una manciatella di noci ne ha pari. Per cui non dobbiamo per forza ammazzare capretti per avere la quantità di proteine. O mangiare la bistecca a colazione. Due uova e mezzo mischiate con un po' di mandorle, una crepe con della farina integrale che è dentro il 14%. Ha fame, eh? Qualcuno qui ha già fame? Sì, adoro la possono, crepe. Sono già una quantità sufficiente. Certo che se noi non partiamo fin dal mattino, certo, poi è difficile inseguirsi a sera. Ah. Quindi distribuiamo e diversifichiamo anche, certo, anche qua sempre questa parola che torna, anche Donatella dalla provincia di Piacenza si è aggiunta a noi, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, Donatella. Io mi trovo assolutamente concorde con quello che avete detto finora, perché da un po' di tempo a questa parte, con l'aiuto devo dire di un'ottima alimentarista secondo me, ho cambiato radicalmente la mia alimentazione variando il più possibile. Mangio tutti e tre i pasti proteine, carboidrati e fibre. Ho perso peso senza la costrizione della dieta, semplicemente cambiando, e mi trovo veramente molto molto bene. Quindi ho inserito i cereali nuovi, ho inserito l'integrale. Ma quanti libri partono da qua per lei? Quanti? Stavamo scherzando, quanti libri le regaliamo stamattina? Un sacco, un sacco. Brava. Grazie, grazie a Donatella. Quindi è bello capire quanto una dieta che ci appaga dal punto di, certo, vista anche del gusto, della varietà, perché il cibo è prima di tutto anche piacere e gratificazione, ci cambi proprio la vita. Abbiamo sentito Donatella, era contenta, sì, è ritornata al suo peso forma, probabilmente dimagrita mangiando, che è quello che vorremmo poi tutti, dottor Speciani. È legato al fatto che quando tu mangi solo alcuni alimenti, in realtà l'organismo è come se sentisse un senso di carenza, e quindi quando l'organismo entra in una condizione di percezione di pericolo, cosa fa? Riduce i consumi e tende a fare stivaggio, no? Ad accumulare nei posti sbagliati, di solito pancia, sedere, fianchi, come dire, sì, le cose che non guasta, che allora, vengono mangiate. Sono la cuoca di un nido vegano, arrivo, i bambini mangiano volentieri tutte le verdure purché siano cucinate in modo vario, ho le galline, ci scrive un ascoltatore, non penso sul balcone, e di conseguenza no, a quelle uova, non pensavo neanche io. E di conseguenza uova super naturali, già, ci scrive Cristiano. Quante ne posso mangiare a settimana? Parliamo di uova proprio quelle che cioè mangiamo noi, non delle uova contenute poi in prodotti che acquistiamo. L'uovo. Ma sai che è una delle lotte più veramente incredibili che stiamo facendo negli ultimi anni, perché l'uovo è stato usato come identificazione del nemico del colesterolo per lunghi anni, tanti tanti anni. Dopodiché abbiamo scoperto nefandezze dal punto di vista della gestione di questo tipo di comunicazioni, sono emerse dei falsi storici, pazienza. La scienza negli ultimi 4-6 anni ha ridefinito che il colesterolo ce lo produciamo noi, non dipende da quello che mettiamo dentro nell'organismo, salvo forse nell'1-2% dei casi. Allora, l'uovo di per sé, anche se dentro un po' di colesterolo, ne ha sempre meno di una pasta, o di, non di pasta di pasta asciutta, di, una, di un bignerone o di qualcosa di questo genere, di un cornetto. In realtà ne possiamo arrivare tranquillamente, è stato rivalutato, riaccettato dalla scienza. Io do con tranquillità il superamento in termini di numeri, anche 2 al giorno, nel momento in cui uno fa un'attività fisica, si muove, sono serenissimi e individualmente e possono anche essere di più, possiamo 14-15 uova con totale tranquillità. Wow, incredibile, infatti. Allora, salutiamo il dottor perché è lui che vuole salutarci, perché poi abbiamo i mercati. Pazienza. Ma questo ascoltatore che fa un grandissimo uso di centrifugato di carote e finocchio, dice tutti i giorni alla lunga, può far male? Chiede Davide da Verona, perché l'avevamo letto a microfono spenti. Considerazione, sì. Considerazione sì, nel senso che intanto è bene usare verdure di stagione, per cui quando un po' finiscono, ecco, se le cambi sono meglio. Il centrifugato in sé tende comunque a togliere una parte di fibra dalla verdura o dalla frutta che invece è necessaria. Noi ad esempio in casa usiamo i centrifugati e ci piacciono molto, ma usiamo la fibretta che viene usata, che viene buttata fuori per fare le polpette o per fare i sughi della pasta asciutta. Dai, riutilizziamo le ricette antispreco del dottor Speciani. Adesso questa non me l'aspettavo. Vedi che ci voleva questo colpo di scena è sul un finale. Uomo, vedi, dalle mille sorprese. Poi dopo i mercati ti leggo un consiglio di Anna da Belluno per far mangiare la frutta e la verdura ai bambini. Lo condividiamo anche. Guarda che il nostro prossimo amico Gualtiero Villa, uno chef, fa tanti corsi anche per educare ad una sana alimentazione i bambini. E quindi? Ha una cucina, una scuola di vede cucina. Vede cosa per si cui... perde, dottor Speciani, lei che vuole se andare a lavorare. Se ci ripensa, la porta per lei è sempre aperta e anche live su Facebook, naturalmente. Grazie, adesso dottor Speciani. Ci tocca. Grazie ancora. Alla grazie, prossima. Alla prossima. Mercati, a tra pochino. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Canzone Il Cuoco Pasticcione ha vinto l'edizione 2000 dello Zecchino d'Oro, Nicoletta. Non era potevamo molto carina, stamattina, certo, non potevamo non metterla anche per ricordare. Cino Tortorella, scomparso ieri, aveva quasi 90 anni, è stato per tutti il mago Zurlì, l'ideatore, il papà di questa bellissima manifestazione. Ognuno di noi probabilmente ha nel cuore un ricordo, sì, di una canzone legata allo Zecchino d'Oro. La tua, tu ci hai pensato un po', ma qual è? Guarda, sicuramente quella che, di cui ricordo tutte le parole è 44 gatti. Certo, vabbè, come però probabilmente non, tutti. Non so, anche Popoff. Io Popoff, perché poi è stata rifatta, certo, anche, lo ricordo, esatto, dal nastro Enrico Ruggeri, che mi piace un sacco. Per cui, vabbè, insomma, un grande pensiero anche da parte nostra, certo, a Mago Zurlì. Non è certo però un pasticcione il nostro cuoco di oggi, almeno non lo sappiamo, chissà che cosa non combina mai dentro la sua cucina. Salutiamo Gualtiero Villa, chef. Buongiorno Gualtiero, benvenuto a Cuore Denari. Grazie. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta, grazie di avermi invitato. E allora, ci sembrava coerente sì, con il messaggio che abbiamo fatto passare nella parte precedente della nostra trasmissione, chiudere oggi, fare questa chiusa certo, con uno chef. Dalla teoria alla pratica. Tra l'altro posso dirti che a microfoni spenti, mentre ci stava salutando, Attilio Speciani mi ha detto non ha sono riuscita a parlare di No, questa la racconto dopo. Ha parlato di carciofi, voleva anche raccontare due cose sui carciofi, ma non abbiamo fatto in tempo, le facciamo raccontare a Gualtiero, sì, magari. Soprattutto ci facciamo dire se è ancora il tempo, ci sono quelli con le spine, i romani, poi ci sono invece le mammole, crudi, cotti. Mm-hmm. Allora, uno chef buonissimo, milanese di grande esperienza, oggi peraltro si dedica all'insegnamento, parlavamo prima anche di bambini, ed è uno dei soci fondatori con due donne molto in gamba di Cucina In, che lui dice non è una semplice scuola di cucina, ma lo chiama un contenitore sociale. Insomma, dopo aver fatto questo bel biglietto da visita a Gualtiero, però Nicoletta, facciamoci raccontare quello che ci interessa stamattina. Andiamo allora, al mercato. Io poi lo porterei con noi al mercato. Perché, dici? Eh sì, perché insistiamo sempre, mi raccomando, stagionalità, chilometro zero, perché risparmiamo anche un po' di denari, infatti, ma soprattutto acquistiamo in gusto, perché sono nella maturazione perfette, quindi hanno proprio tutte le caratteristiche ideali per essere apprezzati, prodotti, ma anche sono ricchi di sapore. Quindi Gualtiero, andiamo con lei al mercato, con te posso darti del ci tu, possiamo dire, possiamo facciamo darmi del tu, questa sì, cosa, diventiamo subito un po' intimi. Mercato, il mercato di marzo? Il mercato di marzo è il mercato dell'inizio della primavera e quindi troviamo tutte le primizie. Per quanto riguarda la Lombardia siamo leggermente più lenti nella maturazione rispetto al Sud Italia, che viene già con un certo anticipo, però possiamo già trovare tantissime cose carine, croccanti, saporite, tipo possiamo trovare gli agretti, troviamo i primi cicorini, le insalate da taglio, i rapanelli che citavate già prima, sono fantastici, poi vedremo anche come utilizzare una parte un po' che passa sì, che solitamente si butta, ma che invece è preziosa, butta, le foglie è di ravanello, magnifiche. Ci sono gli asparagi che cominciano a a dare i propri frutti, le puntarelle di Catalogna, i radici che ci sono. Sì, bisogna stare lì. Quello che già ancora c'è, a parte le erbette e gli spinaci, tutta questa verdurina fresca che sta crescendo. E stanno ricrescendo, diciamo, alcune tipologie di cavoli dopo la ferma invernale. Allora, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Io, allora, acquistiamo questi prodotti, poi li portiamo a casa e dobbiamo iniziare a pulire queste verdure. È un bel lavoro, ma dà anche grande soddisfazione, perché rilassa, è un lavoro manuale. E soprattutto io lo consiglio alle persone che hanno una vita un po' frenetica, pulire, mettersi lì con calma, pulire gli agretti o le insalate. Gualtiero, sei d'accordo? Cioè, prendersi una pausa, non pensiamola, esatto, come deve oddio. Già cominciare quando andiamo a scegliere, quando andiamo a fare la spesa in questo mercato qui, dobbiamo dedicare il tempo alla spesa, dobbiamo farla bene, non dobbiamo farla di fretta, non dobbiamo fare gli acquisti impulsivi, dobbiamo scegliere quello che vorremmo mangiare, quello che ci fa bene e comprare poco per volta, perché poi dopo rimarrà. Da qualche parte, perché se no poi quando apriamo il frigorifero svenuti tutte le verdure svenute del frigorifero, nel frigorifero che ci chiedono, è brutto dice, dovevo lasciarle lì dove erano. Ma invece poi quando le portiamo a casa è anche un piacere cucinare, perché dobbiamo tenere presente che cucinare è sempre un piacere per noi stessi soprattutto, ma anche per chi amiamo. Giustamente è anche un gesto d'amore cucinare, oltre che bellissimo. Quindi imparare anche delle piccole tecniche per maneggiare gli ortaggi, no? Ci fa stare bene. Gualtiero, posso dire, posso allargare la preparazione, non è solamente poi dopo relativo al pranzo. Gualtiero, posso chiederti anche, dato che molte volte la nostra spesa è anche condizionata dal tempo o dalla nostra propensione a metterci ai fornelli. Ci sono delle verdure, dei prodotti che non compriamo perché pensiamo che siano troppo lunghi da preparare, ad esempio i topinambur, che bisogna spelarli, oppure che non sappiamo come cucinare. Come farli rendere in cucina. Allora 800 24 00 24 abbiamo un cuoco a nostra disposizione, sappiamo adesso come dobbiamo fare la spesa, come ci offre il mercato. Avete qualche dubbio, ad esempio gli asparagi, l'alimento mettono, al quale non ve neanche pensate di avvicinarvi perché tanto non sapete come cucinare, si mettono con l'acqua fredda, con l'acqua calda, devono stare sempre in piedi, quanto li cuocio, oppure come riconoscere un prodotto fresco da uno magari un pochino più appassito, e se sbaglio la mia spesa, perché può capitare, che cosa ne faccio delle verdure svenute nel cassetto del frigorifero? Anche questo è un aspetto alla cuore denari. Infatti, Gualtiero, sì, esatto, qualche primo suggerimento prima del traffico, un minuto di tempo. Allora, abbiamo sempre, se come diceva Nicoletta abbiamo sbagliato a fare la spesa o ce ne siamo un po' dimenticati, nel frigorifero spesso troviamo sempre qualcosa, non so, magari possiamo trasformarla in un pinzimonio, possiamo tagliarla a pezzettini, stufarla e farla uno sformatino, oppure possiamo Fulvia infatti ci suggerisce che per esempio fa delle frittate fantastiche con le foglie dei ravanelli e delle rape bianche. Ecco, benissimo. Tutte queste cose vanno benissimo per essere diciamo riciclate. Non so, per esempio con le cipolle che spesso rimangono, le affettiamo per farci una fantastica marmellata. Buona la marmellata del formaggio, quella ci durerà molto più a lungo. Anche. No? Ma questa ricetta in sedene, queste cose in una caponata. Gualtiero, quando hai tempo questa ricetta qua del residuo della cipolla da trasformare in marmellata, ce la scrivi assolutamente, perché sulle nostre pagine social le ricettine vostre vanno alla grandissima, per cui le indicazioni pratiche sono veramente il nostro territorio preferito. E così è anche andare a nobilitare quello che non era più nobile. Ma quanto ci piace questo chef qua oggi? Peccato, guarda, che non è venuto in carne e ossa. Guarda, tra l'altro Cucina Insta qua vicino, adesso lo trasciniamo una volta a forza. Intanto andiamo a trascinarci verso il traffico e poi ritorniamo con Gualtiero Villa, ma non so se abbiamo poi anche se c'è anche il suggerimento alimentare per il cambio dell'ora. Per il cambio dell'ora, adesso ce lo facciamo pensare, visto che oggi l'interrogazione lo stiamo spremendo su tutti gli argomenti, però magari affrontare, perché per qualcuno tu mi insegni, Nicoletta, che il cambio d'ora meglio qualche volta fisicamente parlando, un po' è complesso. È un piccolissimo jet lag per le persone che sono particolarmente sensibili, io non me ne accorgo neanche, ma che cosa ti devo dire? Vabbè. Comunque ne parleremo. A tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Cuore e denari. Tempo, comunque vadano le cose, lui passa e se ne frega se qualcuno è ritardo. Allora, dove eravamo rimasti con Gualtiero Villa, il nostro chef di questa mattina, ben poco cuoco pasticcione, in realtà ci sta dando tante indicazioni utili, pratiche, perché lui tra l'altro mi ha raccontato che si definisce un cuoco anche molto pratico e l'abbiamo percepito appunto dai suggerimenti che ci ha dato questa mattina. Adesso parleremo naturalmente anche del cambio dell'ora, come affrontarla per chi affronta questo momento dell'anno proprio come un piccolo jet lag, ma abbiamo anche suggerimenti come al solito dei nostri ascoltatori che ne sanno una più del diavolo. Qual è arrivato l'arrotino, cosa donne, dice? È arrivato l'arrotino, è Sandro da Firenze che ci scrive: pulire le verdure è meglio utilizzare coltelli in ceramica. Perché? Provate a rispondere. Che ne so, Gualtiero, lo sai, Gualtiero, tu quali preferisci usare? Lo so. Vabbè, lui non può vivere, non può vincere il premio. Adesso stimoliamo i nostri ascoltatori su questo. Allora, dicevamo, dove eravamo rimasti con le domande? Tra l'altro hai ancora il tuo blog, tu Gualtiero, Cooking, Loving, Sharing... Sì, esatto, però essendo pigro io abbastanza... Vabbè, stai sempre in cucina, poco, anzi, la cucina io. di aggiornarlo con la composta di cipolla che ci hai già detto prima, appunto, che si fa con il residuo della cipolla, quindi proprio con tutta la parte esterna, con lo strato esterno. Nicoletta. Ad esempio, non buttare le bucce delle cipolle bionde, mettere in tegame con le uova da rassodare per colorarle a Pasqua, ci scrive Fulvia. Ma vedi tu, guarda, vedi? Incredibile. Allora, vai. Allora, noi siamo arrivate a casa, abbiamo fatto la spesa, puliamo le nostre verdure. Hai sottolineato quanto sia importante la tecnica di cottura, perché basta farle cuocere un pochino di più e noi sappiamo che le vitamine sono un po' delle signorine, sai, di quelle con la puzzetta sotto il naso, basta niente che se ne vanno, e così i sali minerali. Quindi verdure croccanti e Gualtiero, ci piacerebbe anche, ma in cucine da noi, nelle cucine casalinghe un po' difficile, mantenerle di un bel colore brillante, perché tendono invece sempre un po' tutte al grigio verde, che della primavera a poco. Allora, dunque, cotture veloci, semplici, a base di vapore, per esempio. Questo ci aiuta moltissimo. Oppure, per esempio, le verdure verdi, ricche di clorofilla, buttarle in acqua già bollente. Ecco. E ci lasciamo per pochi secondi, pochissimi minuti nel caso, e magari raffreddarle rapidamente in acqua fredda, questo aiuta a fissare un po' meglio il proprio colore. Sì, ci vorrebbe comunque... il ghiaccio, ma il ghiaccio in casa è sempre così difficile, a casa no, ma spesso tiene sempre è sufficiente poco. Una bella doccia gelata. Sì. Esattamente. Comunque la cottura veloce, no, deve essere proprio una cosa... rapida, nel senso che, come hai detto tu prima, le vitamine sono molto delicate, quindi andremo a perdere quello che cerchiamo, una componente fondamentale, esatto, chiaramente, esatto, dell'alimento, ecco, componente, esatto, che, di cui Attilio Speciani ci potrebbe anche citare, vedi, mettere le cose. Allora, domani lo sappiamo, c'è chi l'attende trepidante, che ne farebbe volentieri a meno, ma sta per tornare l'ora legale, che scatterà nella notte. Sai che io ci devo sempre pensare, perché non mi ricordo mai qual è il trasferimento. Allora, legale ce lo facciamo spiegare dal nostro prossimo ospite, professor Marco Zucconi, responsabile clinico del Centro di Medicina del Sonno dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi, buona giornata. Buongiorno, professor Zucconi. Andiamo avanti o torniamo indietro? Perché le giornate... Adesso andiamo ci siamo, avanti. Andiamo avanti, ecco, questo vuol dire che le giornate si allungano, abbiamo lasciato alle spalle l'inverno, ma l'effetto collaterale, professor Zucconi, se proprio vogliamo chiamarlo così, è che dormiremo un'ora in meno. Sì, dormiremo un'ora in meno, è una specie di mini jet lag di un'ora, quindi di un fuso orario che non è considerata neanche tale, e che di solito viene ormai abbastanza ben assorbita dalle persone. L'unico problema è che per alcuni, in particolare per i cosiddetti gufi, è un pochino più difficile, perché vuol dire Svegliarsi la mattina praticamente un'ora prima, quindi insomma un po'... Però dai, di domenica ce la si può fare. E io faccio colazione, sì, un'ora prima. Non ci sono, quindi non dovremmo, andiamo tranquilli, il nostro sonno non verrà disturbato. Sì, dovremmo cercare di, ecco, se possiamo compatibilmente con la, col meteo, stare alla luce il più possibile nella prima settimana, in modo da anticipare un po' i nostri ritmi, quindi dobbiamo cambiamo l'ora. Adesso che cambiamo l'ora, allora dobbiamo dire al sole di scaldarci un po' e sì, andiamo un po' di passeggiate. Tra l'altro c'è una ricerca che dice che sembra che 10.000 passi al giorno non siano sufficienti. Brava, l'hai letta anche tu. Sì, bisognerebbe sì. farne molti di più, 15.000. Sì. Io devo dire che cammino, insomma, 15.000 passi li faccio durante la giornata, io arrivo quasi ai 20.000, ma cammino veramente tanto. Bisogna anche avere del tempo, perché cioè, alzarsi presto. Io poi sai, ho il mio cagnone che è il mio personal trainer, certo. Quindi tutto tranquillo, un mini jet lag, ma Deborah diceva mangeremo, faremo prima colazione. Quindi contenta. Torniamo da Gualtiero. Gualtiero, no, tra l'altro, visto che abbiamo parlato anche di bambini prima, ce ne dai tu due suggerimenti per invitarli a mangiare volentieri le verdure? Perché il grande tema appunto della relazione con i genitori a pasto, c'è sempre il grande conflitto. Tu che fai tanti corsi anche con i bambini, i tuoi sabato so che sono molto affollati lì a Cucina In, insomma, come fai a insegnare loro a consumare la verdura volentieri? Innanzitutto dobbiamo divertirli, deve essere un divertimento per loro. E bisogna sempre tenere alta il componente della sorpresa o della curiosità. Mm. Esempio, sabato scorso, lezione con i bambini 5-8 anni, in realtà ne avevo due di 4 anni e mezzo, fantastici, quindi veramente grande soddisfazione. E, non avevano mai assaggiato né visto l'avocado, no? E allora presentazione dell'avocado, l'abbiamo assaggiato ed è piaciuto, probabilmente posto in un contesto diverso l'avrebbero un po' messo da parte. Sì, perché invece non è un sapore che si pensa nella nostra ricetta a crudo, sì. No? Accompagnato da, in questo caso era da un gambero. E però, allora hanno già sono signori questi bambini. Ma guardate, io qui a Cucina In, le nostre lezioni per bambini e ragazzini, facciamo fare le ricette degli adulti. Ah, vedi? Li trattano proprio come dei piccoli adulti, esatto. Che crescono. Beh, sì, perché per loro non c'è nessuna differenza. Imparare per imparare, tanto vale che imparano. Come imparano le lingue con grande facilità, perché non la cucina. È un metodo per insegnare anche una cultura alimentare. Parliamo di piramide alimentare, parliamo di correttezza. Va bene, insomma, abbiamo dalla ricerca alla cucina, al piatto e ai bambini. Oggi alla abbiamo, salute, alla salute, esatto, alla pianta di limoni. Domani vado in giro per Vivai e poi e vi la settimana prossima, quando la metto sul balcone, ve la faccio vedere su io Facebook. Io però vi eh? Fotografo il mio albicocco che posterò sulle pagine Facebook a due fiorellini, speriamo, e qualche fogliolina e che il tuo sta avocado crescendo. Che ci avevi pure quello? L'avocado ce l'ho, ma aspetto la bougainville che è lì, che non mi fa ancora le foglie. Siamo sane, ve lo assicuriamo, stiamo bene, andiamo verso il weekend. Ringraziamo Gualtiero Villa per essere stato con noi. Gualtiero, buon lavoro, e anche il dottore Zucconi, e noi andiamo. Torniamo lunedì. Buon weekend a tutti.